Ma cos'è di occhi, gappa? Brava. Scusa. Attenzione, il bambolino che si ha ascolto, gappa. Andi. Beh, Antoine. Passeggia. Ma la stessa, mi lascio in macchina. Sei. Faccio un po' di fatica a ascoltarti, Dai un po' di gas. Gas, non è molto spazio, non ricordate il personale quello lì. È a massimo. Sono fuori, non sono stato. Ma grappa. Già lo so, Giacomo. Come senti tu a me? Sì. Santiago 3, la radio può essere 3, eh. Gappa, adesso un po'. No, adesso già ti ascolto un po' meglio. Adesso? Adesso, perché sono uscito a... Diciamo, c'era il bar davanti. C'era una buca già. Ma, hai visto quella cosa che ho messo su Facebook? Dove c'è qualcosa, la risatina scritta. E la giurista di atto, come ti va a voi i sicuri? Serata, che avevo fatto la ghiera. Chiedo di mandare un pubblico a vedere cosa voleva dire, come si diceva in sardo. Abbiamo sentito, sì, volevo sapere come si diceva quella cosa tra. Io le trovo, ga. Ecco. Oh, ho scattato questo schema, amaro. Ma viaggiando, sai, già. Calma. Mamma mia, quanta difficoltà ho adesso a sentirti, cazzarola. E lavora tu, così? Sono imprevisti e ti fanno galoppare. Gappa, ma sei posto chi sono? Chi San Benino sei posto? Devo buttare ad accompagnare una collega che abita a Platamona, ecco, sono tornato. Ah, gappa, no, ti ho detto, cosa ci hai messo con l'antennino, ci hai messo. Ehi, a perché male vanto? In alcuni momenti no, non ce la faccio a tirarti fuori, adesso ti sento sempre meglio. Ecco. Vabbè, metto questo anche perché, anche per l'estetica, l'estetica. Gappa, vabbè, ma non è che funzioni al massimo. Non ti vogliono un pochettino di vitamina per farla andare quella cosa. Purtroppo è piccolo e si sa. Ma di notte mi sente bene, mi accompagna a Forgottone, non so se tranquillamente giro a tu. E dipende anche la lanterna, tante volte a ricezione. E gappa gappa, già andava. Sì, vabbè. Con la lanterna grande magari mi cerchi meglio. Con l'antenna piccola io, l'antenna piccola tu. Ma dove sei arrivato adesso già? Adesso sono... una cosa, una pietra fissa. Oh, ma quanto difficoltà che ho. C'è la discoteca. Tu c'è il cavolo di QRM che mi sta rompendo le scatole. E ma adesso per un po' dovrei sentirti meglio quando cominci a arrivare qua, dai. Non faccio via la puttana, magari. Gappa, via. Ma domani è sabato, manco male. Guarda, Giuseppe ieri mi ha sentito, da quando sono uscito dai granai, mi copiava tranquillamente. Ho il cammino di bianco già che vado a vedere che sento una rissa. Via, eccomi qua. E beh, come mi senti adesso? Sono alla fattoria. Ti sento adesso, mi hai chiesto. Sono alla fattoria. Siamo. Se Santiago 7, sì. Aspetta un attimino già. Pace, mi sembra, aspetta. Dovrebbe arrivare almeno 9, 9, 5. Ma dai, bianco, bianco per me, dai. Adesso come va, guarda. Hola. Buono Gianni, buono. Siamo loro. Avanti, che adesso buono. Io sono già buono, segnale buono e radio buona. Mario, e segnale come ti sta arrivando? Come sono tenendo con questo tuo nome, Mario? E segnale 8:30, 9. Poi gara. Siamo bene allora, e sono anche dietro quelle montagnette che ci sono lì, c'è la butti butti, dove stanno aggiustando la strada, non so se lo sai tu dove. Sì, sì che lo so, beh, non siamo mica tanto lontani, però già fa bene così il segnale, anche la radio, che ce l'ho al minimo anche. Quando si va a sul tetto la differenza c'è sempre, è normale. Poggiani, tu lo sai quanto è me, da un baracchino all'altro tante volte cambia tutto. Sembra a me questa palattina che è buono quello che c'è anche un solito, magari l'antenna quando è sul tetto ha più ricezione, c'è poco da fare. E prova a allontanarti i mic dalla bocca a vedere un po'. Ma guarda a vedere. Più chiara, più. Dai, grazie. E comunque questo è un antenino che ho autocostruito io, Mario. L'ho fatto piccolino, 75 centimetri. Già va bene, già va bene. Su vai, comunque buonasera, non ci siamo manco salutati. E così all'ascolto, facendo le orecchie di maialetto. Sto aspettando, adesso stai cominciando Sanremo, capito, e ho acceso. Ho fatto la spazzata, non c'era nessuno, mi sono fermato, ho sentito Antonio, ho sentito. Buonasera Mario, salutone ben sentito. Mario, non sei uscito. Forse ho schiacciato, ma hanno rimane in macchina. Ho detto che adesso è cominciato Sanremo, ha incominciato, capito? E così che mia moglie lo può seguire, che sono da camera mia. Vi saluto a te, a Gianni, e augurando una buona notte. Riprende Gianni. Ciao Mario, dai, buona visione allora di Sanremo. State cose belle, dai. Buona giornata per domani. Avanti, Antu. Ma salutone Mario, ce la risentiamo tutta le prossimine. Ciao. Oh, io Sanremo non lo guardo mai. Poi non lo posso digerire perché c'è. Loro lo chiamano comico, ma a me non piace. C'è uno che non lo digerisco per niente, quindi è meglio lasciar perdere. Sì, vabbè, Antu, ma è uno spettacolo che a livello nazionale guardano quasi tutti. Oh, io lo stesso non è che ne guardi, però la maggior parte della gente, ma non guardo proprio televisione, io guardo solo telegiornali e documentari, queste cose mi piacciono, sa. Chiappa, no, non lo digerisco, soprattutto quando lo vedo mi siede un po' il sangue. Quando vedo quelle cazzo di Benigni, mamma mia. Ho pagato più di quattrini per dire stronzate, basta. No, guarda, io già veramente non lo digerisco quella personalità. Prenditi la citronzolina per digerirla. Chiappa, no, non posso vedere. Mi sa su lì di Belè, mi sa, è più forte di me. Vabbè, se non ti piace, non ti piace, per quanto va a fare. Il personaggio così sciato il tone, che comico fa. Cioè fa di... ne manco un comodo ridica. Poi a qualcuno può anche piacere, eccetera, eccetera, ma a me no, non piace. su, dov'è il segnale? Ah, sì, no, ok. Qua, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, così quasi a fondo scala. E non sono sotto casatura ancora, eh? Fai gaffa. E beh, ma adesso già comincia a arrivarmi forte. Non sei a fondo scala, ma non sei quasi. Non ci sei ancora. Va. Ma tu, mi sa che io ti sono tutto canto e devo andare ancora a mangiare a casa. Sentiamo un po', magari se ce la faccio, vediamo un pochettino tu. Mo disturo tutto, che sono quasi arrivato. Ma sei arrivato lì a casa? Ancora no, tu, ancora sono a semaforo. Non l'hai sentito a Salvatore? Salvatore a tu? Sono agricola. Oh, negativo. Scappa. Ok, dai, ce la risentiamo. Cambio. Ora mi faccio un dolce che ci sarà a Salvatore e poi la limite. Facciamo una rottalità. Guarda, dopo vediamo, dai, via. Ciao, dai, ce la risentiamo. Ciao.